Si riporta l'articolo 83 della Costituzione della Repubblica Italiana, il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dai suoi membri. All'elezione partecipano 3 delegati per ogni regione, eletti dal Consiglio regionale, in modo che sia assicurata la rappresentanza anche delle minoranze. Ricordiamo che la Valle d'Aosta ha un solo delegato e che l'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente invece la maggioranza assoluta. Si riporta anche l'articolo 85 del regolamento interno. Al punto 1 dice che l'elezione dei delegati regionali che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica, secondo l'articolo 83, secondo comma della Costituzione, si procede a scrutinio segreto, e al punto 2 che ciascun consigliere può votare fino a 2 nomi. Se ci sono interventi, prima di passare alla votazione, consigliere Zappaterra. Grazie Presidente, per dire che noi, a nome della maggioranza, propongo i nomi dei 2 profili istituzionali che meglio rappresentano, credo, questa regione e anche quest'Aula, la Presidente dell'Assemblea Emma Petitti e il Presidente della Giunta Stefano Bonaccini. Grazie consigliera, altri? Consigliere Del Monte, prego. Grazie Presidente, noi come centrodestra proponiamo il nome di Matteo Rancan. Grazie consigliere, io non ho altri interventi, a questo punto passiamo al voto. Prima nominiamo 3 scrutatori, consigliere Costa, consigliera Bondavalli, consigliere Pelloni. A questo punto passiamo alla votazione, come ci è stato ricordato, nelle modalità che sappiamo, quindi votazione segreta tramite apposita app, e ciascun consigliere può votare sino a 2 nomi. Dichiaro aperta la votazione. Abbiamo l'esito della votazione. Presenti al voto 49, 1 assente. Bonaccini Stefano 32 voti. Petitti Emma 26 voti. Rancan 19 voti. Nulle 3. Quindi sono stati eletti Bonaccini, Petitti, Rancan.